Bentornati a Testa Croce, dal fantasma di Vince e da Gabby in carne e ossa che torna dopo una breve assenza. Bene, ma sono vittima di una devastante influenza. Invece Gab è vittima di cosa? Sono vittima della salute più smagliante, come sempre. Perfetto. Allora, bene, diciamo due parole sulla puntata di oggi. Sì, dai. Diciamole. Abbiamo un ospite innanzitutto, io lo introdurrei subito. Quelle sono le due parole. Abbiamo Francesco ospite, Biondi. Ciao a tutti, ciao. Ciao Francesco. Chi è Francesco Biondi? Sì. Non chiediamolo a Francesco Biondi, presentiamolo, dai. Ma sì, Francesco Biondi è un drammaturgo. Sì, sostanzialmente viene in questa veste e anche tante altre cose, suppongo. Ah no, stavo per dire che non è nient'altro. Un uomo, però vabbè. Viene in veste di drammaturgo a presentare il suo, allora, la sua prossima opera. Io, siccome non siamo in TV, io spiegherei qual è la veste del drammaturgo. Com'è la veste di un drammaturgo, Francia? Beh, allora, una felpa rossa. Al microfono. No. Il drammaturgo semplicemente è colui che scrive il testo di uno spettacolo teatrale, sia comico che drammatico. Un dramma, suppongo. Sì, sì, appunto, nel senso di un testo che viene agito sul palco. Ecco, è il testo che ci presenterà, di cui parleremo, insomma, è molto, molto particolare, quindi... Vogliamo anticipare qualcosa? Ma no, dai, no, non anticipiamo niente. Non vediamo niente. Assolutamente no. Vabbè, tanto in realtà chi ci segue, che ha letto le mail, sì, qualcosina ha intuito. Qualcosina già comunque. Sa, benissimo. Ricordiamo i nostri contatti, che dici? Sì, è da tanto che non lo facevo. Sì, dunque, sì. Allora, abbiamo un'email che è testacroceshow@gmail.com. Sì, uno Skype che è testacroceshow, da aggiungere per brevi messaggi in diretta. E un blog sempre aggiornatissimo. Sì, sì, sì, ogni giorno scriviamo qualcosa. testacroceshow.blogspot.com. Sì. Comunque quello è fatto anche per voi, quindi se ci mandate, sì, commenti, noi siamo anche più invogliati a rispondere. Anche se ci mandate articoli, anche se ci mandate da qualche altra parte. Sì. No, più che altro, appunto, vi invitiamo a partecipare, insomma, a dirci i vostri commenti su quello che diciamo in trasmissione. Sì, ci fa piacere, sì, insomma. Vi ricordiamo, c'era quell'idea del concorso, non è morta. Non è morta, quindi, no. Anzi, diciamo che c'è da fare giusto la premiazione e quindi vi diamo tempo ulteriore per rispondere a quelle domande. Sì. Che trovate comunque nel blog, sono riportate là. Un'altra settimana, giusto? Sì, sì, direi di sì. Poi benissimo. Salterà come sempre, ma sì, va bene, ma sì, ci piace così. Sì. Bene, cosa... Benissimo, diciamo subito che oggi è 15 dicembre e facciamo gli auguri a Bacco, di San Bacco, il suo nome in realtà era Dahat, comunque San Bacco il Giovane, e poi Santa Virginia... Che è figlio di San Bacco, il dio greco, no? Esatto, sì, sì. No. E poi Santa Virginia Centurione Bracelli, quindi tanti auguri a tutti i Bacco e a tutte le Virginia Centurione. E tutti i Centurioni. Esatto, sì. Va bene, ricordiamo brevemente che l'8 dicembre, in cui è saltata la puntata, sì, ricorreva... la morte di due grandi musicisti, tra cui uno costituisce la nostra sigla finale, cioè John Lennon. E un'altra vittima sempre di un omicidio quello stesso giorno fu Dimebag Darrell, il chitarrista dei Pantera. Ma senti là. E tutti e due uccisi l'8 dicembre, coincidenze o no. Un po'. Invece nacquero il 15 dicembre, insomma, se fossero vivi ancora oggi sarebbe il loro compleanno, Nerone e Peter Colosimo, che è un giornalista. L'ho sentito, sì. È un giornalista che parla di un po' di archeologia misteriosa, cose del genere, insomma, magari avremo modo di parlarne in qualche puntata prova, chissà. Beh sì, inviterò Giacobbo, che conosco personalmente. Bene, c'è altro? Direi che partiamo con un pezzo, forse. Prima, velocissimamente, Jacopo, il nostro affezionato ascoltatore e direi quasi redattore occulto, che ci segue sempre, e ci ha segnalato un paio di notizie durante la settimana. La prima è che Famiglia Cristiana avrebbe pubblicato tempo fa un test per capire se il proprio figlio è affiliato con Satana, però si è rivelata una bufala, mi dispiace dirlo. Cioè non c'era su Famiglia non Cristiana. Non c'era su Famiglia Cristiana, esatto, però peccato perché era bello, tipo uno dei... Ma dov'era? Era una bufala partita dall'America proprio, però era bello perché uno dei parametri era, per esempio, mangia cibi gotici. Per mangia cibi gotici. Beh, sarebbe interessante sapere quali sono, esatto, i cibi gotici. E l'altra notizia che ci segnala è che, appunto, è stata fatta una fotografia di Mercurio. Su questa fotografia è apparso un bagliore strano che da alcuni è stato interpretato come addirittura un'astronave grande quanto Mercurio, cioè, grande quanto Mercurio, ma a occhio proprio... sulla fotografia, sembrava sulla fotografia. Sì. Vabbè, okay. E comunque la NASA ha sbufalato, ha smentito, ha detto che appunto si tratta di un difetto di elaborazione. Beh, detto di questo, cosa? Della, della foto? Fotografia, ah, sì, sì. Bene, bene. Detto questo, beh, si parte sì, con comunque la musica. Sì, vi avevo detto del chitarrista dei Pantera, non a caso, perché partiamo proprio con un pezzo dei Pantera. Belli, belli, e, ci piace. Sì, questo è Cemetery Gates. Rieccoci qua su Testa Croce Show. Rieccoci. Siamo di più. Siamo cresciuti durante il pezzo musicale. Sì. C'è un altro ospite che è passato a trovarci. Sì. Presentiamolo. Presentiamolo. Filippo Scarparo. Attore. Ciao a tutti. Ciao Filippo. Attore e non solo. Attore e non solo, anche lui è un uomo, anche lui, anche lui è un uomo, altre e cose. Altre cose. E appunto, è un caso che c'è un attore e un drammaturgo. Sì, penso di sì, penso di sì. Passava da qua Filippo, ha suonato e l'abbiamo aperto. Sì, sì, infatti, mi aveva detto che c'era di Pizzi, invece è un posto tristissimo. Io voglio solo dire una cosa, io ho smesso di fumare, mi stanno fumando minimo due persone accanto e sono un eroe. Ecco, e come due persone? Vince, no? Cosa stai facendo? No, c'hai no, anche, no, c'hai no, anche mal di gola. Cose non legali. No, no, no, io non fumo. Tra l'altro lo sapete che se fumi il 30% della nicotina lo assumete voi, no? Ecco. E dateci qualcosa almeno con quello che abbiamo capito, che lo spettacolo parla del fumo, esatto, dei mali del fumo. Siamo ispirati a e anche dell'alcolismo, perché Francesco la prima cosa che ci ha detto quando l'abbiamo invitato in trasmissione è stato: porta una bella boccia di vino. Sì, e vabbè, ma Vincenzo non voleva, esatto, perché ha mal di gola. Esatto, sì. Va bene, vogliamo dare un paio di notizie veloci prima di passare al... Sì, sì, diamole, dai, diamole. Comincia pure. No, no, no, io passo a te la palla. Beh, allora vediamo un po'. Allora, una notizia di qualche giorno fa sul Washington Post. Allora, l'esercito degli Stati Uniti consentirà a Menachem Stern, dal cognome già si intuisce qualcosa, secondo me, è un rabbino ebreo ortodosso che farà il cappellano militare senza doversi radere la lunga barba. Incredibile. La notizia è questa, sì, che sì, sì, normalmente viene richiesto di adeguarsi anche esteticamente ai, sì, canoni, sì, dell'esercito, sì, sì. Infatti molti Sikh anche si sono lamentati di questo, no, fatto, infatti, recentemente. Infatti, anche ai tempi di Padre Pio, chi andava in guerra e i frati ci andavano, venivano richiamati, venivano rasati. Padre Pio non ci andò in guerra, naturalmente, si sentiva male. Beh, poi Padre Pio era già pelato, no? Anche quei tempi, quindi non aveva bisogno. Ai tempi non credo. Bene, benissimo, bene. E poi che possiamo dire? Qualche altra cosa di veloce ce l'abbiamo? No. Beh, sì, dai, no, dai, abbiamo questa. Allora, la Chiesa Battista di Gulner, a seguito di una votazione promossa dal pastore Stacy Stepp nella conferenza di Sandy Valley, che riunisce più di 100 chiese battiste, ha recentemente proibito l'accesso alla chiesa a una coppia di sposi, di cui una, cioè uno degli sposi, la donna, in questo caso proviene dallo Zimbabwe. Ah. E questo è il motivo per cui è stato proibito, perché il matrimonio appunto è misto. Ah. E, però ci sono state varie proteste, tanto che adesso a breve ci sarà un'ulteriore votazione, e pare comunque già che questo divieto sarà revocato, perché... è anche contro la legge dello Stato, perché praticamente va sopra la legge dello Stato che prevede un'uguaglianza, certo, una certa, l'accesso alla chiesa pubblico, sì, insomma, sì, sì, è libero. E bene, dai, benissimo. Per ora con le notizie chiudiamo. Sì, dai. E parliamo dell'argomento per cui abbiamo invitato Francesco e Filippo, cioè parlare di uno spettacolo che stanno preparando, no? Per mettere in scena, diciamolo subito, per quando? Quando è la data? È stato deciso il 19 febbraio. Ecco. Probabilmente. Una decisione ferma. Probabilmente il 19 febbraio. Ottimo, benissimo, ottimo, saremo tutti là. Sì. Del resto la precisione nel mondo del teatro è una costante, quindi. Certo. Quindi sappiamo anche il dove, o questo è ancora un'incognita? Il dove è l'unica cosa sicura, che è all'ex Aurora. Probabilmente. Quello di sicuro. Perfetto. Benissimo, il working title ce l'abbiamo oppure... Allora, Ragazzi, mi piace Working Title, vero. Perché sa già che non abbiamo un titolo definitivo. Mi sono informato prima di... Sì, infatti l'idea era anche quella di lanciare tipo un sondaggio a chi ci ascolta, a quale titolo gli piace di più. Sì, ma l'abbiamo abolita. L'abbiamo abolita, non lo abolita. No, va bene, facciamolo. Allora, durante la trasmissione avete un'idea su un titolo adatto, magari fatevi un'idea parlando della trasmissione, verrà fuori di cosa parla più o meno, magari fatevi un'idea, poi dateci un titolo interessante. Questo potrebbe essere un'idea. E verrà valutato e poi scartato come esatto. Insomma. Comunque è uno spettacolo su Padre Pio, giusto? Sì. Chi è questo Padre Pio? Noi siamo ispirati alla costituzione di questo spettacolo, soprattutto dalla nostra incrollabile fede nel mistero di Gesù e della Chiesa Cattolica e negli insegnamenti del nostro Papa. Capisco. Naturalmente. Certo. E per questo abbiamo deciso di mettere in scena questo spettacolo che non mette in scena, scusate il bisticcio, Padre Pio come personaggio, ma il magnifico entourage che lo circondava in sua vita. E d'altronde è vero che la fede non ha bisogno di prove, però magari vedere com'è una persona che si crede santa potrebbe essere interessante. E non so se l'autore vuol dire qualcosa prima che io continui in un monologo infinito. Ecco, perché appunto Francesco ha scritto questo spettacolo e Filippo sarà l'attore protagonista, giusto? Esatto. Al mio posto qui ci dovrebbe essere il regista effettivamente, sì, però invece ci sono io, vabbè, ecco, insomma, dai. Jonathan Freschi, puntualizziamo, ora poi vi faccio tutta la lista delle persone. I formali, non facciamo i formali, dai. Visto che è assente. No, vabbè, mi sembrava doveroso in effetti. Sì, comunque ecco, diciamo, qualcosa di più. Allora, velocissimamente, la storia del progetto è nata così per me, ecco. Jonathan Freschi, regista, è venuto da me e mi ha chiesto di realizzare, mi fai uno spettacolo su questo libro, e mi ha dato questo libro che è Il Santo Impostore di Guarino. Ed è un libro praticamente che prende un po' in giro sarcasticamente e giornalisticamente gli agiografi di Padre Pio. Ora correggetemi se mi sbaglio. Ma è documentato comunque. Sì, certo. Sì, quindi tutto documento e cifre. Quindi la mia difficoltà era questa essenzialmente, cioè scrivere una storia, un dramma su un libro che è fatto poi di date, di fatti, cifre, ecco, documenti. Sì. Cioè, è una cosa quasi impossibile. E, infatti la prima stesura che ho fatto è stata subito rifiutata e faceva schifo effettivamente, e quindi mi sono messo ho messo al centro del discorso questo personaggio messo un po' più sconosciuto, diciamo, dell'entourage di Padre Pio, ma fondamentale, che è questo Felice Brunatto. Bene, diciamo chi è questo, che comunque ricordiamo è il è tutto fare è interpretato da è la vitola di Padre Pio, da Filippo, dicevo. Sì. Questo personaggio che non esiterei a definire losco, e poi posso anche naturalmente giustificare questa mia affermazione, nelle agiografie è nominato, in realtà è molto conosciuto dalle agiografie, ed è nominato come addirittura il cavaliere primigenio, non è una mia espressione, di Padre Pio, suo primo fedele, eccetera, eccetera. E è un personaggio di cui tuttora esiste una fondazione, basta battere Emanuele, in realtà, perché il nome vero è Emanuele, il nome Felice lo usava in quel periodo perché per vari motivi non poteva farsi trovare, poi se volete vi racconto anche qualcosa. E c'è ancora una fondazione, basta fare emanuele.com, emanuelebrunatto.com, e si trova con due M, Emanuele, sì, con due M, come usava, nome biblico, esatto, sì, esatto, molto esatto. Benissimo, continuiamo fra qualche minuto, adesso mandiamo un brano musicale. Cosa ci fa ascoltare? 13 Women, una canzone scritta da Dickie Thompson nel 1954 e portata al successo qualche mese dopo da Bill Haley and His Comets, riproposta poi da molte band tra cui The Renegades e i Goodfellas. Ce l'ascoltiamo. Last night I was dreamed about the H-bomb. Well, the bomber went off and the high was caught. I was the only man on the ground. Bentornati cari ascoltatori di Radio Cage, siamo qui con Francesco e Filippo. Bene, facciamo un saluto a Dragona che segue e ci ha comunicato che è la figlia del diavolo. Ciao Dragona, vista la tua qualifica ci fa molto piacere sapere che ci ascolti. Sì. Ecco, dunque. Dicevamo sì. di questo Emanuele Brunatto, questa figura oscura che... Insomma, che era nello staff di quest'altra figura oscura che è Padre Pio, di cui si sa ben poco. In realtà qualcosa si sa, no? Io, una cosa, ora, scherzi a parte, prima accennavo alla mia religiosità fervente, ma chiaramente non è così. Io non sono mai stato un fedele, ne ho mai creduto ovviamente nei miracoli di Padre Pio, ma al di là di questo, ingenuamente, ho sempre ritenuto comunque che talune persone, magari per aver avvicinato da bambino alla figura di San Francesco, per quanto non, secondo me non fossero mandati da Dio e non compissero miracoli, erano comunque dei bravi ragazzi, cioè nel senso uno ha comunque l'idea di queste persone sante che sono comunque delle persone buone, che nella vita hanno puntato solo al bene degli altri o all'ascesi, alla spiritualità, ed è incredibile. Io invito veramente chiunque stia ascoltando a informarsi dal punto di vista giornalistico e semplicemente storico di quello che è passato nella vita di Francesco Forgione, in arte Padre Pio, perché è una cosa incredibile. Io quando anni fa appunto avvicinai questo libro di Guarino ci rimasi male, cioè nel senso è incredibile, è una cosa, è come infatti, se ti raccontassi, infatti parliamo, diciamo chi è, parliamo diciamo un po'. Volete, sì, allora è un frate, no? Di che ordine? Francescano. Francescano. Beh, si chiama Francesco, d'altra parte. Sì. E non a caso ovviamente, anche il nostro Francesco Biondi. E dunque, pare che, almeno io ho trovato questa notizia, non so se risulta anche a voi, che da piccolo soffrisse di qualche visione. Allora, dobbiamo innanzitutto cominciare a scrivere, diciamo, il personaggio di Padre Pio, dove, insomma, nel luogo e nel tempo in cui è vissuto. Esatto, cioè nella Pietrelcina, appunto, nella terribile depressione dei primi del secolo del sud dell'Italia rurale. Quindi dovete immaginarvi una situazione molto pesante dal punto di vista fisico, proprio di quello che erano gli impegni e i lavori. E questo ragazzino, fin da piccolo, con la scusa, oppure perché già da bambino, se qualcuno ci vuol credere, che un bambino possa avere, diciamo, dire questa cosa, che comunque Pietrelcina è un paesino di essenzialmente vaccari, bigotti, non c'era il medico. Sei un po' eccessivo, dai. No, no, diciamo, gente che lavorava dalla mattina alla sera. Abbiamo già, è un paese rurale, fatto che lavorava, era anche un fatto che erano persone chiaramente che credevano proprio al diavolo, ma anche al santone, cioè non c'era il medico o la scienza che ti così, se avevi una malattia andavi dal medico, no? Il medico del paese magari era appunto un santone, uno che ti metteva la monetina dentro il bicchiere. Vabbè, ti do una brutta notizia, Francesco, esistono ancora paesi del genere, esistono ancora anche nel nostro paese, appunto, in quelle zone anche. Beh, Francesco, io non ho odiato Pietrelcina quanto te, però devo ammettere che hai ragione. Ma, tutto sommato, salutiamo tutti i nostri ascoltatori di Pietrelcina. io sono nato a Pietrelcina. No, comunque quello che ci teneva a dire Francesco è che vabbè, era un po' forte come espressione, alla fine è un paese di contadini. Diciamo che per me uno che crede al diavolo è un bigotto, va bene? A proposito di diavolo, volevo dare appunto proprio su questo questa toccante testimonianza. Stai offendendo Dragona in questo momento. Dragona, io non credo in tuo padre. Sono io tuo padre. Ma andiamo avanti, restiamo su Padre Pio. Su Padre Pio, no, questa toccante... Una toccante testimonianza poi che pare che lo stesso Padre Pio, cioè già quando aveva 4 anni aveva vessazioni da parte del diavolo, certo, e lui raccontò: mia madre spegneva il lume e tanti mostri mi si mettevano vicini e io piangevo, accendeva il lume e io tacevo perché i mostri sparivano, di nuovo lo spegneva e di nuovo mi mettevo a piangere per i mostri. Vabbè, alla luce della fede che scacciava i demoni. Oppure i terrori notturni fanno parte della crescita. Vi posso raccontare, se volete, un aneddoto proprio dell'infanzia. Sentiamo. Quello che, e non sto scherzando, nelle geografie è noto come il miracolo dei peperoni. Che ora vi vado a spiegare. Il giovane Francesco, un giorno che doveva andare al lavoro nei campi, non ci è andato come al solito perché non si sentiva bene. Si va bene, rimane a letto. Come al solito, era un po' lavativo. Era un ragazzo, non so, però i bambini di 12 anni all'epoca sfortunatamente andavano a spaccarsi la schiena nei campi. Sì, se non parli del Francesco non... Fatevi... Ottimo Filippo, vedo che hai capito come funziona. Sì. Dai, andiamo avanti. Non va a lavorare, la famiglia naturalmente parte per i campi e dice così la gioca. Francesco si sveglia intontito dalla malattia, va in cucina e trova una tegamata, senza nessun doppio senso, di peperoni che la mamma aveva testé cucinato per la famiglia a desinare. E Francesco, appunto, dice l'agiografo, indebolito dalla febbre, meglio non trova che diciamo scoppiarsi la tegamata di peperoni intera e rubare il cibo alle persone che erano andate a lavorare nel campo, metto fra parentesi. Ecco, cioè, questa è un'altra espressione d'odio, però è vero, è assolutamente giusto. e se li mangia chi tutti, non l'ha fatto da bambino, e dice la Giocano che a quel punto viene preso da una terribile malessere che noi potremmo chiamare indigestione o miracolo, non essere blasfemo, e viene, a quel punto viene assalito, diabolico, viene assalito dai mostri dopo aver mangiato i peperoni e si ammala di brutto, dice la geografo, con febbre alti tanto da temere per la sua vita, ma poi la notte si fece una gran sudata e la mattina dopo gli era passata la febbre, cioè gli era passata Dio sia lodato. Sempre, cioè, questo per capire c'è un passaggio più importante, scusami, ed è questo, che il miracolo consiste che il dottore disse questo bambino morirà perché gli hanno fatto troppo male questi peperoni, e il fatto che non sia morto è il miracolo. Questo Sì, adoro essere corretto, grazie. Questo è, cioè, nel senso, questo per capire, sembra, cioè, una cosa scritta da Federico Maria Sardelli. No, ma è vera, cioè, nel senso, questo per dare un metro a cosa diventa un miracolo, passa come un miracolo. Invece, ad esempio, alla fine della carriera di Padre Pio, alla fine vi è addirittura un miracolo al contrario, cioè, allora dice la geografa che un giorno, Padre Pio era già anziano, ancora deambulante, ancora nella piazza, passa un furgone con sopra un miscredente che gli apostrofa male parole, Padre Pio lo guarda e fa un gesto e non vuoi, questo sembra vero il Sardelli, e non vuoi che qualche centinaio di metri dopo si schianta contro un platano, cioè è una cosa veramente, miracolo. No, come miracolo, è una maledizione, infatti, e tra l'altro nella Bibbia è chiaramente scritto che miracoli di questo genere sopra e sotto natura sono opere di Satana. Ma questi sono valevoli per essere poi santo, a darne basta tre, per cui poi scelgono i tre migliori, però nelle geografie poi la lista è molto più lunga. Tiene così, giusto? No, tra l'altro è bellissimo perché ne servono tre, di cui se non mi sbaglio due dopo la morte, ecco. È favoloso perché basta un testimone postumo, ti possono fare santo anche a tua insaputa, è meraviglioso. Capisco, sì. Va bene, dai, ma poi prendiamoci una pausa, facciamo una pausa che insomma l'argomento è denso, carico. Quindi ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Frank Zappa che ci tira un attimino su. I don't know much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. I'm good, I'm a fool, yeah. Hey, darling, can I buy you a couple of drinks? Rieccoci di nuovo qui con Padre Pio, no, scusate, con Filippo e Francesco, che stanno preparando questo spettacolo su Padre Pio. Sì, che andrà in scena probabilmente il 19 febbraio. Ma sicuramente all'Aurora. Ma sicuramente all'Aurora. Cinema Aurora. Benissimo, diciamo giusto, chiudiamo un attimo, un minuto, il discorso su Padre Pio, dicendo che appunto... Si fa per dire, insomma, poi parliamo dello spettacolo. Sì, ci sarebbe da fare puntate intere, no, su questa figura un po' carismatica, però insomma ha attratto un culto notevole che attrae 7 milioni di pellegrini all'anno. Come? Si dice appunto che avesse queste stimmate, molti hanno però fatto delle indagini mediche a vario titolo, tra cui anche Padre Agostino Gemelli, che era medico, psicologo, sì, e consulente del Sant'Uffizio, che ha concluso che è un blef e lo ha chiamato psicopatico autolesionista di imbroglione, per esempio. Poi ci sono state altre indagini. La versione ufficiale della Chiesa... Allora, la versione ufficiale della Chiesa... Allora, il 31 maggio... Stimmate, ovviamente. Allora, il 31 maggio 1923... Santo. No, però prima era di un'opinione diversa. Diciamo... Nel maggio 1923 il Sant'Uffizio emette il decreto non constat de supernaturalitate, cioè non c'è nessun evento soprannaturale. Una definitiva sconfessione arriva nel 1931, si parla appunto, tra l'altro ci sono testimonianze che paiono dimostrare che lui si procurasse sostanze per abrasive, insomma acide per la pelle, l'acido fenico, la veratrina, sì. E poi nel 1964, dopo anni in cui le visite, la fede insomma dei pellegrini aumenta sempre di più, il nuovo Papa Paolo VI concede personalmente ma ufficiosamente a Padre Pio della Pietrelcina l'indulto, quindi il reintegro, e contemporaneamente, sarà una coincidenza, molteplici attività finanziarie gestite da Padre Pio passano in gestione alla Santa Sede. Ecco, poi alle 2:30 del mattino di lunedì 23 settembre 1968 Padre Pio muore all'età di 81 anni, e va bene, poi diventa santo sotto Giovanni Paolo II. Mi ha fatto venire in mente anche un'altra cosa, che a proposito del miracolo dei peperoni, cioè sì, è stata una temperatura alta, no, di Padre Pio, sì, si diceva, sì, sì. E questa è un'altra cosa che viene attribuita spesso, il fatto di avere delle febbre altissime, sì, sì, si parla di massimo di 52 gradi raggiunti, sì, quello è il record attuale. Si parla di questo, sì. In teoria la medicina dice che a 43 gradi si sopravvive per pochi minuti. Sì. E quindi un po' strano. Appena strano, sì, ma d'altra parte è un po' tutto strano. Dici. Tenere presente che Padre Pio ha passato la vita a morire, stava sempre per morire, fu addirittura ordinato sacerdote con 2 anni di anticipo, benché non fosse quasi mai andato a fare lezione al seminario, siccome stava morendo, era un giovane moribondo, la curia all'epoca gli concesse di diventare sacerdote in anticipo, senza fare gli esami addirittura e senza aver mai neanche partecipato, perché poverino stava morendo. Poi ha campato fino a 81 anni, che per una persona di quella classe, diciamo, non è male, insomma. Non è male per nessuno. No, dai. Sì. Va bene, passiamo a parlare un po' dello spettacolo, appunto. Quindi, Francesco, ci dicevi che sei partito dal libro di Guarino, quindi un libro denso di fatti, di date, di documentazione, e hai scelto però su cosa hai scelto di incentrare lo spettacolo e perché su, appunto, questo personaggio invece di Felice Brunatto. Perché era affascinante questo personaggio, che praticamente stava all'ombra di Padre Pio, lo aiutava. Come avete appena detto, c'era uno scontro terribile con il Vaticano, perché chiaramente il Vaticano a quei tempi non poteva accettare la figura di questo fraticello che faceva durare le messe 4 ore e mezzo, erano mezzi spettacoli, lui che narrava i suoi combattimenti con i demoni, comunque un anticonformista, non sono mai piaciuti alla Chiesa, e soprattutto obiettivamente non poteva permettere che ci fosse tutto questo potere economico in mano a questo fraticello, perché c'era gente che adepti che gli donavano campi, addirittura una ferrovia gli hanno donato, insomma, una ferrovia a San Giovanni Rotondo, dove appunto poi alla fine che gira intorno al paese, c'era tutto, non mi ricordo dove era. Dai, sembra, non è importante. Sei confuso probabilmente con la locomotiva Zanatti. Non una ferrovia, una locomotiva, scusate, ecco. È normale che usava per recarsi alla chiesa. Acquisirono il progetto insieme al personaggio di Brunatto per tentare di venderlo a mezza Europa, ma era una truffa e non la comprò nessuno. Per tornare un attimino sul personaggio, per difendersi comunque dai vari attacchi del Vaticano, eccetera, eccetera, c'era questo il messer Brunatto, Felice Brunatto, che praticamente raccoglieva dossier su magari arcivescovi o cardinali o monsignori vari nemici alla figura di Padre Pio, perché magari veniva a sapere che si concedevano a certe figlie spirituali che poi andavano a dire tutto a Padre Pio, facendo cigolare. Cigolare? Capito. Non si può dire cigolare in radio, insomma, Francesco. Praticamente, ovviamente, i preti sono uomini. Francesco, quindi, come sei pudicolo, me lo aspettavo da te. Parliamo di favori sessuali. Perfetto. Non abbiamo mezzi termini. Dai. Su questo, ci piace così. Insomma, questi rapporti anali che avevano censurato. E quindi, tanto poi tagliamo. E quindi con questi dossier ricattava questi cardinali che assumevano posizioni antagoniste a Padre Pio e riusciva in qualche modo a fare una resistenza al Vaticano. E questo lo vedremo nello spettacolo. Allora, diciamo che nello spettacolo c'è da dire questo: tutti i fatti che vengono così accennati o di cui si parla nello spettacolo sono tutti veri, raccolti dal, appunto, il libro di Guarino. Poi le dinamiche dei personaggi seguono una ragione più drammaturgica, certo. Ecco, non seguono proprio. Chi sono i personaggi oltre a i personaggi principali sono questi: Felice. Sono appunto Felice, poi c'è il sindaco del paese che si chiama Francesco Morcaldi, detto Cicillo, anche questo lo dice Guarino. Maria di Maggio era una figlia spirituale, ha una sua vicenda che ora ricorda un po' Maria di Magdala, sembra proprio scelta apposta, fantastico, che però io nel dramma utilizzo appunto per un fine drammaturgico e non così di storia vera e propria. E poi altri personaggi che sono tutti inventati da me. Devo dire che c'è la messa in scena, il testo come era scritto, come l'ho scritto io, sarebbe la messa in scena rappresenterebbe San Giovanni Rotondo. Ma quello ormai non ci interessa. Mentre quello che andrà in scena. È importante dire la differenza. Anche perché a me piace molto, infatti, devo dire, il lavoro che ha fatto il nostro regista, Jonathan, uno dei migliori di Livorno nel suo mestiere, proprio è entrato dentro il testo e ne ha estrapolato uno dei piani di lettura, perché il testo diciamo ha diversi piani di lettura, diciamo non che solo era più quello ampio, è stato ridotto e trasformato a una cosa anche più allegorica, se non sbaglio, giusto? Diciamo è più sì, ma diciamo che l'aspetto mediatico di Padre Pio, che nel testo è molto importante, questa specie di metateatro che io avevo messo nel testo, viene proprio viscerato come la scimmia della mosca. Non ecco, so se quindi Padre Pio come spettacolo, insomma, no? Sì, come offerta si respira Padre Pio, cioè, senza che ci sia Padre Pio. Questo... Ecco, ti volevo chiedere, ma cosa come appunto atmosfera, cosa ci dobbiamo attendere? Una cosa, cioè grandi risate, sì, oppure molta riflessione, oppure una via di mezzo? Ma guarda, io devo dire, secondo me c'è un mix. Diciamo che è uno spettacolo che è un po' difficile, secondo me, da dire più drammatico o più comico. Sicuramente è un misto tra i due, volendo. Uno quindi, volendo, beh, è divertente, comunque piacevole. Questo secondo lo dico me, io sì. Perché ho dato un'occhiata veloce. Sì, una scorsa l'ho data anch'io. Te lo sai bene, sì, in realtà. E vogliamo dire anche no, perché se no lo presenti anche in un modo, secondo me, che certo. non vantaggioso. No, ecco, non è una cosa pallosa. No, è veramente diciamo uno spettacolo divertente, sì. Però in forma. È satirico, esatto. Vogliamo dirlo finalmente questo working title? Allora, io il testo l'avevo scritto, io non sono bravo a trovare i titoli, diciamo, questa cosa. Ma secondo me invece sì. E l'avevo nominato The Pio Horror Show. Okay. Niente male. Niente male. Diciamo, il regista giustamente faceva schifo il titolo, ma io l'avevo detto, per me non è il titolo definitivo. E quindi ora l'altro giorno Jonathan ci aveva proposto invece come titolo Padre Pio, una storia falsa. Grande però, passo avanti. Però questo rovina un po', che ha trovato insomma, io avevo detto che mi piaceva anche, ma appunto io non ci capisco niente di titoli, ecco, quindi si perde un po' l'aspetto più divertente, perché comunque più horror show si rifà horror picture show. Sì, sì, esatto. È interessante da quel punto di vista. Comunque appunto, spettatori, cioè ascoltatori, diteci un titolo. Sì, dateci voi il titolo, e scrivetecelo alla nostra mail testacroceshow@gmail.com o allo Skype testacroceshow. Anche subito, anche così subito, sì, diciamo sì. Subito ai nostri ospiti. Oh, visto che si parla di horror, mandiamo un pezzo, ed è di Harry Belafonte, Zombie Jamboree, Back to Back, secondo titolo. It was a zombie jamboree, took place in a New York cemetery. A lot of world leaders talking about war, and I'm afraid they're going too far. So it's up to us, you and me, to put an end to catastrophe. Rieccoci in diretta. Sì, eccoci qua ancora a parlare di questo spettacolo dal titolo innominabile. Chiamiamolo più horror show per ma il chiamiamolo momento, così, dai, sì. E abbiamo, ne stiamo parlando con Francesco, che è il drammaturgo, e Filippo, che sarà l'attore protagonista. Allora, Filippo, vuoi concludere in una riflessione, qualcosa da dire per come ultima cosa? Sullo spettacolo, su Padre Pio? Su Padre Pio, lo spettacolo. Sullo spettacolo non saprei, perché non l'ho ancora fatto. Ok. Su Padre Pio posso dire... Ma spingo e invito le persone a informarsi in mezzo a ricatti, percosse, bande di fascisti, sparatori e furti. La Divina Provvidenza, se esiste, vorrei sapere dov'è. Ecco. Bella conclusione. Assolutamente. Sì. E Francesco? Allora, scusate, ma io devo prendere 3 secondi per ringraziare. Tre. No, per ringraziare l'associazione. No, dai, non fagli perdere tempo. Momento palla. Sì. Vabbè, momento palla. Dai, Checco! Allora, volevo ringraziare l'associazione Bottega del Verrocchio e l'UAR che produce questo testo, e ringraziare gli altri ragazzi che collaborano a questo spettacolo, che sono Annalisa Matarazzo, Marco Bruciati, Giorgio De Santis e il regista Jonathan Freschi, che l'abbiamo già nominato, e Alessandro Baldi, che appunto è il nostro referente produttore, ecco. E poi cosa? Non so se hai una ultima frase. Non ce l'hai. Il giorno che ci sarà lo spettacolo venite, perché sarà sicuramente molto bello. Benissimo, bellissimo. La mia penso che frase hai conquistato migliore, tantissimi tantissimi spettatori con questa frase. Ma sì, Francesco. Ma sì, ne sono sicuro. Bene, comunque avete un giusto in questi giorni è uscito un vostro grandissimo concorrente, perché è uscito il musical The Book of Mormon, non so se lo sapevate, che si presenta addirittura, cioè anzi è stato già messo in scena qualche volta, si presenta addirittura ai Grammy Awards come favorito. La colonna sonora ha già vinto il Tony Award, è entrata nella top 10 delle classifiche pop, che è una cosa che non succedeva da tantissimo per un musical. E questo musical è creato dagli ideatori di South Park. Adoro. E quindi è appunto è a tema satirico e religioso, ovviamente si parla di mormoni. Brevemente la storia è che ci sono due giovani missionari mormoni, vengono mandati in un villaggio sperduto dell'Uganda, quindi ci sono tratti in comune con forse con Pietrelcina, San Giovanni Rotondo, e cercano di fare proseliti tra la popolazione, che ovviamente è vessata dalle carestie, dalla povertà, dall'AIDS e da un malvagio signore della guerra. Quindi immaginatevi che successo potranno avere questi due ragazzi mormoni. Fantastico. Comunque, io andrei subito. Ma non so se verrà messo in scena mai in Italia, magari un adattamento prima o poi ci sarà, chi lo sa. Sì. Bene. Segnalo una cosa velocemente, che però è abbastanza importante in questi tempi di crisi. È partita qualche giorno fa a opera dell'UAR, che ha menzionato prima Francesco, che è Unione Atei Gnostici Razionalisti, la piattaforma www.icostidellachiesa.it con le indagini aggiornate sui contributi conosciuti dello Stato alla Chiesa Cattolica. Si va dall'8 per 1000 all'esenzione ICI, contributo per la religione cattolica e insegnamento nelle scuole, cappellani militari e quant'altro. Il totale che viene fuori sarebbe 6 miliardi di euro. Ci sono altre stime, per esempio quella dell'Agenzia Ricerca Economico Sociale, che nel libro La Casta dei Casti ha quantificato addirittura 20 miliardi questa cifra. Annui. Sì. Ebbene sì. Che facciamo? Andiamo mandiamo un ultimo pezzo? Sì. E poi torniamo per i saluti. Assolutamente sì. Allora ci ascoltiamo una canzone di un nostro concittadino, Bobo Rondelli, e questo da Storie Assurde da On The Reg. Ciao Bobo se ci ascolti. Microscopico libero tra le nuove dimensioni. Bene, ci sfumiamo Storie Assurde e torniamo con le ultime cosucce prima di salutarci. Sì, diamo qualche consiglio per il weekend. Allora, ci sarà qualcosa alle Conchiglie? Secondo me sì. Sì, ma non c'entra con la religione. Stranamente, c'è il sesto convegno c'entra nazionale. Finalmente con la grande vita di Riccione, no? Esatto, sì, no. Movida. Che poi vabbè, spiagge, è il periodo migliore. No, comunque. Però vabbè. No, invece è il sesto convegno nazionale del SEO, cioè Search Engine Optimization. Concorrenti di Google, sì, esatto. E un posto costa 749 euro comunque, che è una bella cifra. No, ma di cosa si parla? Posto del come ottimizzare i siti per i motori di ricerca, insomma. Se no, potete andare a Torino, se avete sempre tanti soldi da spendere, a Il Potere della Mente, organizzato da Centro Enjoy. Da venerdì 16 a domenica 18, un viaggio affascinante e un'opportunità unica alla scoperta delle immense potenzialità che risiedono in ognuno di noi, sempre a nostra disposizione nella nostra mente, per creare una nuova percezione della realtà e permetterci di raggiungere obiettivi, risultati e benessere straordinari. Questo alla modica cifra di 355 euro. Per quanti giorni? Da venerdì 16 sera a domenica 18. Beh, però insomma. Niente male. Non è male. Ma ogni tanto dovremmo consigliare anche qualcosa di gratuito. Qualcosina c'è. Ogni tanto, però io non lo trovo. Comunque, mi impegno, però. E va bene, facciamo fare un saluto. Ai nostri ospiti, dai. Prego, salutate casa. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato questa sera. Grazie. Che voce suadente. Laudemus Jesus Christus. Ecco, amen. Ah, però. Dovresti però rispondere sempre laudemus miscredente. Chiedo scusa, ma è un po' che non vado a catechismo o cose del genere. Comunque, soprattutto che grazie per le prostitute che ci avete fatto trovare qui in radio. Grazie. Grazie Francesco, sappi che non ti inviteremo mai più. A meno che non porti la boccia di vino che avevi promesso. No, grazie ai nostri ospiti che hanno coraggiosamente e con entusiasmo accettato il nostro invito per parlarci di questo spettacolo, di questa iniziativa molto interessante. Beh, coraggiosamente, pubblicità gratuita. Sì, ma lo dico per aggiungere un po' di capito. Sì, diteci quanto bisogna darvi per questa cosa. No, ho detto gratuita, poi ne parliamo. Poi ne parliamo, punto, infatti. Punto, A proposito, se volete mandarci dei soldi, vi ricordiamo. Sì, scriveteci in un'email e vi diamo le modalità bancarie. Comunque, a parte tutto, scriveteci per darci consigli, suggerimenti, commenti e per il nostro concorso. Naturalmente. testacrocesshow@gmail.com. Appunto allo Skype testacrocesshow. Possiamo dire che la prossima puntata ci sarà la premiazione, tanto attesa, sì, sulle prime quattro domande. Sì. Ecco, lanceremo la monetina e decideremo il vincitore del viaggio nel Valhalla. Fantastico, benissimo. E forse ci saranno anche premi di consolazione. Forse. Sì, secondo me ci saranno. Può darsi che ci saranno, benissimo. Se sono belli come il Valhalla o anche la metà, sì. Insomma, sicuramente avremo un sacco di partecipazione. Sì, esattamente. E ringraziamo Federico, il tecnico che è stato con noi e costruito la trasmissione insieme a noi. E fra poco ci sarà Dietro l'angolo, quindi non chiudete il browser, la fantastica trasmissione che segue alla nostra è di Jacopo, che parlerà di band giovani livornesi come sempre, e vi rimandiamo quindi al prossimo giovedì a ascoltare Pietralcina, a vedere dove è nato il nostro santo Pio. Benissimo. Ciao Pio, ciao se ci hai ascoltato dal Valhalla, e sigla. Arrivederci a tutti. Ciao.